Tamarro Bizzarro. Senti che roba va. Ecco che sta arriva, dai. Andiamo, regà. Vostre proteste e altre storie, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Battito lento.

cerco di far provare quella sensazione attraverso il mio racconto musicale. Oh, grazie, vostra eccellenza, grazie. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Quanto perde tutto intorno, continua.

esperimenti emozionali sognati da Gigi D'Agostino. Movimento, sentimento. Baby, you've been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you see, Gigi D'Agostino.